Allora, quello di Bologna dal punto di vista giudiziario, anche se sono passati 43 anni, è un cantiere perennemente aperto, tanto che negli ultimi anni abbiamo avuto due sentenze importanti che hanno portato una serie di nuovi elementi su una vicenda che da un punto di vista giudiziario in prima battuta è già chiuso da tempo ampiamente, perché la Cassazione ha chiuso nel 95 l'iter per Mambro Fioravanti, confermando la condanna nei loro confronti all'ergastolo, quindi stiamo parlando di quasi 30 anni fa, mentre nel 2007, in un procedimento successivo, ma tutto sommato parallelo, è arrivata la condanna definitiva a 30 anni per Luigi Ciavarlini. Si trattava di un procedimento separato perché Ciavarlini all'epoca dei fatti non era maggiorenne e quindi si è passati attraverso il tribunale dei minorenni e così via, ma nel 2007 è stato riconosciuto anche lui definitivamente colpevole in concorso per la strage alla stazione. Quindi parliamo di vicende giudiziarie chiuse, definitive, sentenze passate in giudicato e ormai di tempo ne è trascorso, tanto che sia Mambro, sia Fioravanti, sia Ciavarlini sono da tempo liberi, hanno usufruito di tutti i vari regimi, libertà condizionale, oggi sono in libertà. E questo dà la misura anche di quanto tempo è trascorso. Però, ripeto, la vicenda è aperta da un punto di vista giudiziario perché è del 2000 una nuova condanna all'ergastolo a Giberto Cavallini, pure lui dei NAR, pure lui per concorso nella strage, nel suo caso in sostanza per aver fornito il supporto logistico a Mambro, Fioravanti e Ciavarlini, che le notti del 31 di luglio e 1 agosto erano appunto ospiti di Cavallini in Veneto, Ciavarlini anche da qualche giorno prima. Dopodiché lo scorso anno l'ultimo processo, quindi stiamo parlando di processo ancora in primo grado per Cavallini, così come in primo grado è la condanna all'ergastolo a Paolo Bellini, neofascista pure lui, ma di avanguardia nazionale, condannato pure lui all'ergastolo per concorso in strage. Entrambe sentenze di primo grado. Per Cavallini l'appello è in corso e a settembre si concluderà rapidamente, perché manca ancora solo di fatto l'arringa della difesa Cavallini, della nuova difesa Cavallini, perché i suoi storici difensori hanno rassegnato il mandato in maniera anche abbastanza clamorosa, se non polemica. Quindi nel giro di pochi mesi avremo anche la conclusione dell'appello Cavallini e presumibilmente entro la fine dell'anno partirà l'appello anche per Paolo Bellini. Qui è anche una vicenda complicata perché solo da poche settimane Bellini è passato dagli arresti domiciliari agli arresti in carcere perché è intercettato da altre magistrature, in particolare dalla DDA di Firenze e di Caltanissetta, se non ricordo male. È stato intercettato mentre proferiva minacce nei confronti dell'ex moglie, la cui testimonianza è stata determinante per la sua condanna all'ergastolo in assise, e addirittura pare che progettasse un qualche cosa contro il figlio del presidente della Corte d'Assise che ha emesso la sentenza nei suoi confronti. Quindi ogni giorno ce n'è una, verrebbe da dire. Aggiungo che è in corso e anche si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno un processo che non è proprio marginale. Per falsa testimonianza, tra gli imputati c'è anche Ciavardini, falsa testimonianza resa durante il processo a Cavallini in primo grado. E quindi anche questo è un processo in corso che afferisce evidentemente all'immane questione giudiziaria della strage di Bologna. Il processo Bellini, appunto, è un processo mandanti, è stato chiamato anche perché si è innestato sulla cosiddetta appunto inchiesta mandanti che la Procura Generale di Bologna ha avocato a sé dopo che la Procura Ordinaria sembrava volesse archiviarla, anzi aveva proprio chiesto l'archiviazione. Era un'inchiesta che partiva da tutta una serie di input prodotti negli ultimi anni dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, tese naturalmente queste produzioni a cercare di arrivare al livello superiore rispetto a quello dei meri esecutori, no, della strage. Perché ci si è sempre chiesti, ma qual era l'obiettivo ultimo, qual era il movente, quali erano i mandanti? C'erano soprattutto dei mandanti oppure la strage era da ascrivere a dei ragazzini, tutto sommato, perché Mambro, Fioravanti erano poco più che 21enni, 22enni, Ciavarlini addirittura minorenne, Cavallini sì, aveva qualche anno in più, ma comunque non si trattava di un ferro vecchio della destra, con i quali invece era in contatto, dell'estrema destra, gli ordinovisti veneti in particolare, e quindi si è sempre pensato che ci fosse un livello superiore, anche perché durante quando avvenne la prima condanna all'ergastolo, la condanna definitiva all'ergastolo per Mambro e Fioravanti, sono stati condannati anche per depistaggio. Il reato allora non era configurato come tale, ma oggi possiamo parlare di depistaggio delle indagini. Sono stati condannati, erano stati condannati anche Licio Gelli, quindi il capo della P2, Francesco Pazienza, quindi il grande faccendiere del cosiddetto Super Sismi, e poi altri dirigenti del Sismi, che era il servizio segreto militare di allora, Musumeci e Belmonte. Quindi c'è stato un depistaggio commesso anche da uomini dello Stato. Ora, l'inchiesta Mandanti sembrerebbe aver acclarato, e così abbiamo. Stando alle motivazioni emesse sulla sentenza Bellini, della sentenza Bellini, c'è un'amplissima parte, centinaia di pagine, che si riferisce al lato mandanti, diciamo così, all'inchiesta mandanti. Queste motivazioni appunto hanno indicato, seguendo appunto quello che era la richiesta, diciamo, della Procura Generale, hanno indicato ancora in Licio Gelli, in Umberto Ortolani, quindi il suo sodale alla guida della P2, Federico Umberto D'Amato, ex prefetto, ex capo dell'ufficio affari riservati, e Mario Tedeschi, giornalista, ex parlamentare missino e a lungo direttore del Borghese, questi personaggi che a vario titolo, come mandanti, finanziatori, organizzatori della strage, appunto, sono stati ritenuti tali. È evidente che questi ultimi personaggi, giacché sono tutti da tempo deceduti, non hanno subito un processo dibattimentale, no? Evidentemente. E quindi la ricostruzione da questo punto di vista della Procura Generale prima e della Corte d'Assise poi è soprattutto in termini storici, giacché non c'è stato dibattimento, anche se la mole di elementi portati dalla Procura Generale, in particolare per quanto riguarda l'apporto di Gelli e D'Amato, è imponente, è imponente. Faccio riferimento in particolare al cosiddetto documento Bologna, che è questa lunga serie di movimentazioni bancarie trascritte a mano dallo stesso Gelli di milioni di dollari nelle giornate immediatamente precedenti e successive al 2 agosto dell'80, parte dei quali passati per mano cash, no? In contanti, proprio tra il 31 e l'1, 31 di luglio e l'1 di agosto del 1980. Col che si può, è stato indicato appunto Gelli come in qualche modo mandante. E d'altra parte questa cosa si collega alla condanna per depistaggio di molti anni prima, perché uno deve depistare banalmente per allontanare dalla verità, ma anche per allontanare da una verità scomoda per sé. E quindi le cose in qualche modo, anche a un occhio molto disattento, si legano tra loro. Dopodiché è vero che non tutto sappiamo, ma io credo che non tutto sapremo mai. È evidente che i processi di Bologna sono processi indiziari, come spesso è stato detto, e coloro i quali lo ripetono in maniera anche abbastanza ossessiva lo fanno anche per dire che quindi non sono provati, che quindi non ci sono elementi sufficienti, non ci sarebbero stati elementi sufficienti per condannare gli esponenti dei NAR. Io però banalmente replico dicendo che tutti i processi per strage sono indiziari, la stragrande maggioranza di tutti i processi sono indiziari, a meno che non ci sia la flagranza di reato o la confessione. No? Figuriamoci se c'è una confessione per un episodio così terribile come è stata la strage di Bologna. Quindi non è che i processi indiziari valgono meno, anzi, se uno si studia gli atti delle tante sentenze, e l'iter di Mambro Fioravanti si è concluso davanti alle sezioni unite della Cassazione, quindi il più alto grado di giudicante dell'ordinamento giudiziario italiano. Beh, la mole di elementi indiziari è enorme. Sono tutti elementi indiziari, come si dice in questo caso, plurimi, univoci e convergenti. Quindi, paradossalmente, benché il cantiere giudiziario di Bologna sia ancora aperto, e stando a quello che magari uno legge in giro, sembrerebbe che i dubbi sarebbero ancora enormi circa la responsabilità dell'estrema destra, no, io credo invece che la strage di Bologna è stata quella che più è stata indagata in tutti questi anni, mi verrebbe anche da dire che meglio è stata indagata, e per la quale abbiamo la magistratura, naturalmente, ha raccolto una mole di elementi enorme, enorme. E quindi io invito tutti ad andare a leggere, banalmente a iniziare a leggere le sentenze, che sono tutte facilmente reperibili in rete, perché ho la sensazione che gran parte di coloro i quali parlano di Bologna in questi termini, no? Complotto giudiziario, processo non basato su elementi solidi, eccetera, non conosca affatto le carte. Tra quanti hanno parlato di complotto giudiziario in questi anni? Ci sono molti degli esponenti attualmente seduti tra i banchi della maggioranza del Parlamento, alcuni anche con incarichi nel governo attuale. Fra l'altro, proprio tra i banchi della maggioranza parlamentare è venuta fuori in questi giorni, a inizio luglio, l'idea di una ennesima commissione d'inchiesta parlamentare. Questa volta la commissione d'inchiesta dovrebbe occuparsi di fare luce su le stragi in Italia tra il 1953 e il 1992. Già la periodizzazione, il tentativo di ricondurre in un periodo così lungo un unico filo interpretativo, sembra suggerire il fatto che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di cancellare le responsabilità dei fascisti e dei servizi segreti dalle stragi, compresa quella di Bologna. Allora, quello della volontà da parte della destra, che per tanti anni è stata l'opposizione, ma che oggi è al governo, di riscrivere la storia della strage di Bologna, beh, insomma, non è cosa nuova, no? È cosa che va avanti da anni. E d'altra parte la targa che è a Bologna parla espressamente di strage fascista. Le risultanze giudiziarie, ripeto, da tempo passato in giudicato, questo dicono. E quegli esponenti dei NAR che sono stati condannati già in via definitiva, da lì provenivano, no? Quantomeno le loro primissime esperienze politiche le fecero a suo tempo nei circoli giovanili del Movimento Sociale, comunque di quell'area politica stiamo parlando, indipendentemente dalle appartenenze alle varie sigle. È chiaro che per la destra Bologna è un'onta, è un qualcosa che va cancellato. È impossibile farlo per Piazza Fontana e Piazza della Loggia, perché storicamente la vicenda è chiarissima. Ecco, paradossalmente continuano a provarci su Bologna, in cui le sentenze sono da decenni, ripeto, lì che attestano ciò che è avvenuto. Quindi questi tentativi non mi sorprendono, li hanno sempre fatti, però oggi la destra lo fa da una posizione naturalmente con nuovi equilibri politici in Parlamento e quindi naturalmente essendo forza di governo, figuriamoci. Allora, sulla proposta di istituire questa commissione, mi risulta che il testo che deve essere discusso in Parlamento per la costituzione di questa commissione ancora non sia stato depositato, però è curioso che anche solo dal titolo si possono scoprire delle circostanze curiose, no? Uno ad esempio potrebbe chiedersi, ma perché dal 1953 in poi? Perché non 52? Perché non 60? Perché proprio 53? Allora, magari mi sbaglio, però per quel che mi risulta, l'unica cosa di rilievo che è avvenuta nel 1953 che potrebbe in qualche modo afferire a una ipotetica commissione parlamentare del genere è una strage che avvenne a Trieste, no? Però era relativa agli anni ancora dell'occupazione da parte delle forze alleate, no? Vicenda lontanissima nel tempo, ma vi furono dei morti. Quindi Trieste, occupazione americana, confine orientale, è un tema da sempre caro alla destra, evidentemente. Quindi già questo un po' ci può forse suggerire anche l'impostazione di questa commissione, che però non è un'impostazione, come dire, misteriosa, è evidente che quello è lo scopo, no? E quindi è evidente che assisteremo, continueremo ad assistere a questi tentativi di riproporre. Diciamolo, insomma, perché poi non è un mistero, la cosiddetta pista palestinese. Non è un mistero perché sta avvenendo anche in questi giorni, anzi in queste ore, mi verrebbe da dire. Se uno scruta un po' la rete tra ieri e oggi, scopre una piccola mole, diciamo, se si può dire così, di elementi giornalistici e non solo, tesi appunto a rilanciare per l'ennesima volta la cosiddetta pista palestinese. Ora, dobbiamo dire due cose sulle cosiddette carte di Giovannone, no? Che è uno dei pilastri su cui da tempo si basa questa continua riproposizione della cosiddetta pista palestinese. Stefano Giovannone era il capocentro del sisma a Beirut in quegli anni, quindi le carte di Giovannone sono tutto un elenco di suo materiale che veniva inviato alla sede sisma a Roma, e poi naturalmente le varie elaborazioni e diffusioni di questo materiale a livello di CESIS, Ministero di qua piuttosto che il ministero di là, presidenza del Consiglio, eccetera. Ora, si è sempre detto da parte del cosiddetto fronte innocentista, chiamiamolo così, che in quelle carte stesse la verità su Bologna, cioè che lì stessero appunto gli elementi che potevano far ricondurre la strage a una vendetta del fronte popolare per la liberazione della Palestina per via dell'arresto di un suo uomo, oltre che di alcuni autonomi romani, nell'ambito di del trasporto di alcuni lanciamissili che dovevano appunto arrivare in Medio Oriente e che erano materiale, diciamo, del fronte. Qui poi c'era tutta la questione del Lodomoro, ma insomma, senza divagare troppo, in realtà quelle carte ora sono state desecretate dopo che Prani se ne è chiesta la desecretazione. Quelle carte sono state desecretate, sono state versate all'Archivio Centrale dello Stato. Paolo Persichetti e io le abbiamo visionate, ne abbiamo studiate, ne abbiamo ampiamente scritto sul Domani, poi più recentemente anche sull'Unità da parte di Paolo e comunque sul blog di Paolo Persichetti, Insorgente, e quelle carte sono inequivocabilmente nulla hanno a che fare con la strage di Bologna. Adesso sarebbe troppo lungo raccontare il contenuto di quelle carte, però è materiale che si trova facilmente in rete, nei nostri articoli, per cui invito chi ha voglia di approfondire il tema a cercarli. Nonostante questo, già che il fronte innocentista sulle carte di Giovannone è duro a morire, mi verrebbe da dire, anche in questi giorni, anche in queste ore, si assiste a una riproposizione di questa tesi. Anche qui non sto a dettagliare il come e il quanto, tutta roba facilmente, ripeto, reperibile in rete, però tutto questo è per dire che i tentativi comunque di togliere il marchio di strage fascista, appunto alla strage di Bologna, non smettono affatto. Poi naturalmente attorno al 2 di agosto si moltiplicano questi episodi. Ritualmente ogni anno attorno al 2 agosto esplode di tutto, no? Da un punto di vista mediatico, eccetera. Quindi non è per nulla sorprendente. C'è da dire che, ripeto, le sentenze dicono cose chiare, le dicono in maniera argomentata e secondo me assolutamente solida, molto più solida della cosiddetta pizza palestinese, che non è che non sia stata indagata, è stata archiviata nel 2015 dalla Procura di Bologna dopo 10 anni di indagini complesse, approfondite, con tanti rogatori all'estero, no? Oggi si stanno riproponendo materiali che sono stati già vagliati e giudicati. La difesa Cavallini, che ha rimesso il mandato nelle scorse settimane lasciando il loro assistito in mano a un avvocato d'ufficio, lo ha fatto polemicamente perché nulla delle loro richieste di rinnovazione di atti in appello sono state accolte dalla Corte ed erano tutte cose relative appunto alla riproposizione della pista palestinese. E però non c'era nulla di nuovo e il codice di procedura parla chiaro: uno propone una rinnovazione di atti se ha degli elementi nuovi, altrimenti ci si basa su quelli precedenti, c'è poco da fare. Se ci sono di nuovi, ben venga, ma se non sono nuovi e sono già stati giudicati, quindi sono stati tutti respinti. Quindi il polverone che è piccolo, per carità, polverone che si è sollevato attorno a questo passaggio giudiziario, è abbastanza surreale, mi verrebbe da dire. Ora, bisognerà vedere se questa commissione, se e quando verrà istituita, come lavorerà. Io sono molto guardingo, diciamo così, per non usare altri aggettivi, nei confronti di qualsiasi commissione parlamentare d'inchiesta. Non ha importanza il colore politico da cui esse in qualche modo sono generate, originate, e non ha di per sé importanza neanche il tema, anche perché l'ultima commissione Moro lo certifica, lo testimonia, lo attesta proprio in maniera palmare, le commissioni che nascono per un certo motivo, no? Con un certo oggetto di indagine, poi si aprono a raggiera e accolgono al proprio interno elementi, come dire, spunti per indagini di qualsiasi tipo. Se non ricordo male, io ho visto che dall'ultima commissione Moro sono stati generati filoni di inchiesta molteplici su vicende di semplice, tra virgolette, cronaca nera. Quindi tutto viene un po' ingoiato in quel gran tritacarne che poi è la cultura del sospetto, detta nel modo più gentile, la cultura del complotto, detta in altro termine, no? E ne approfitto per ricordare che dai microfoni della radio a marzo abbiamo curato uno spazio proprio sulla pista palestinese. Trovate il podcast online sul nostro sito www.ondarossa.info, uno spazio radiofonico in cui abbiamo provato a ripercorrere punto per punto quanti sono le bugie che vengono raccontate su Bologna, in particolare nel tentativo di attribuire ai palestinesi la paternità della strage. L'abbiamo fatto anche in compagnia di Daniele Epifano, che è proprio uno degli autonomi firmatari fermati a Ortona con i missili stresi alla vicenda da cui avrebbe originato poi il coinvolgimento palestinese a Ustica e a Bologna. Tra l'altro, tra le bugie più macroscopiche c'è quella detta da Giovanardi, che per anni ha spacciato un documento proprio del carteggio a Giovannone come una minaccia avvenuta alla vigilia delle stragi, documento che poi invece si è scoperto essere dell'anno successivo, del 1981. Della pista palestinese e delle carte di Giovannone si è lungamente parlato poche settimane fa, proprio nel corso del processo d'appello a Gilberto Cavallini. E lì la Procura Generale, che tra l'altro loro sono stati a produrre anche a favore della difesa Cavallini, quando ancora era sostenuta da Bordoni e Pellegrini, quindi è stata la Procura Generale a mettere a disposizione delle parti il carteggio, appunto, che era versato all'Archivio Centrale dello Stato. E lo ha fatto discutendone, poi parlandone poi durante il dibattimento. E quindi se uno ha la voglia di andare a sentirsi su Radio Radicale, le trova facilmente le udienze, le trova quella in cui la Procura Generale ha parlato lungamente delle carte di Giovannone, devo dire che seguendo anche grosso modo quello che avevamo già scritto io e Paolo Persichetti, ma naturalmente la Procura Generale lo ha fatto di suo, figuriamoci se, no? E quindi l'analisi della Procura Generale è, come dire, è indiscutibile. Bisogna avere un po' di pazienza perché è un'udienza abbastanza lunga, però c'è poco da fare. Io invito tutti, ascoltatevela, ascoltatevela, al di là dell'episodio folcloristico dell'errore di data di Giovanardi, su cui però Giovanardi e i suoi hanno campato per anni, spacciando per del 1980 un documento che era del 1981, quindi a stragi compiute da tempo, perché c'è di mezzo anche Ustica naturalmente. Quel documento era di un anno dopo, non era precedente alle stragi di Ustica e di Bologna, era di un anno dopo. Per anni ce l'hanno spacciato come, no, la prova principe che c'era un qualche cosa che invece. Però, ripeto, se uno va a sentirsi l'intervento del procuratore generale, del sostituto procuratore generale Protto al processo Cavallini di poche settimane fa, beh, insomma, ascoltatevelo, c'è poco da fare. Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, però è spiegata in maniera assolutamente lineare. Io mi chiedo come ancora si faccia a sostenere che quelle carte siano la base per immaginare una qualche altra pista, dopo che non solo ricercatori indipendenti, ma anche una procura generale della Repubblica lo ha così massacrato. Ecco. Paolo, noi ti ringraziamo per la chiarezza del contributo. Temiamo che ci sarà ancora bisogno di tornare a parlare di Bologna, dei tentativi di inquinare le acque intorno alla ricostruzione di quanto è successo quel 2 agosto di 43 anni fa. Per questo ti ringraziamo, perché sicuramente torneremo a disturbarti nel caso. Grazie a voi e io sono sempre a disposizione nell'ambito dei miei limiti, naturalmente. Grazie. Grazie a tutti voi e grazie a chi ci ha ascoltato.